Perché indugi in malinconie inessenziali? Perché nascondi all'imperatore la grandezza del suo destino? Mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza macchia, io raccolgo le ceneri delle altre città possibili, che scompaiono per farle posto e non potranno più essere ricostruite né ricordate. Solo se conoscerai il residuo d'infelicità che nessuna pietra preziosa arriva a risarcire, potrai computare l'esatto numero di carati cui il diamante finale deve tendere e non sballerai i calcoli del tuo progetto dall'inizio. La catastrofe dello spazio urbano contemporaneo rivela la crisi tanto della città reale quanto dell'idea di città. Nell'immaginario moderno la città ideale ha preceduto e accompagnato lo sviluppo della città reale. Architetti, filosofi, riformatori sociali, a partire dal passaggio tra Medioevo e età moderna, hanno disegnato la città ideale. A Mauroto, dunque, è posta sul dolce declivio di un'altura ed è di forma quasi quadrata. Infatti, nella sua larghezza, cominciando da poco sotto la cima del colle, si stende per 2 miglia sino al fiume Anidro. Le piazze sono tracciate in modo acconcio sia per i trasporti che contro i venti. Le case in nessun modo misere, e se ne vedono per file lunghe, che si stendono per interi quartieri con le facciate fronte a fronte, separate da vie larghe 20 piedi. È tradizione che detta città l'abbia disegnata in tutta la sua configurazione Utopo in persona, ma abbia lasciato ai suoi discendenti la cura di abbellirla e perfezionarla. Nei progetti e nelle utopie è già contenuto un elemento centrale della città moderna, quello del controllo sociale della popolazione, attraverso l'organizzazione razionale del territorio. È l'industrialismo, la più grande forza creatrice del XIX secolo, che si incarica di tradurre in realtà questa idea. L'irregimentazione della popolazione si realizza in uno dei più spaventevoli e degradanti ambienti urbani che la storia abbia mai conosciuto, la Coke Town, che imperò tra il 1820 e il 1900. La tecnologia del ferro e del cemento non plasma solo le città, i quartieri operai e quelli residenziali, i centri e le periferie. Si radica talmente a fondo nell'immaginario che anche i sogni del futuro del XX secolo, quelli della fantascienza, ripetono ed esasperano il gigantismo tecnologico del secolo precedente. Il cambiamento radicale era consistito nella graduale formazione delle città lungo l'arco di un millennio. Efficienza voleva dire grandezza, una cosa di cui ci si era resi conto vagamente persino nel Medioevo. Poco a poco i villaggi, i paesi e le metropoli della terra morirono e vennero inghiottiti dalle città. La cultura delle città permetteva una distribuzione ottimale del cibo, con l'utilizzazione su scala sempre più vasta dei lieviti e delle colture idroponiche. Ogni città divenne un complesso autonomo, quasi autosufficiente dal punto di vista economico. Costruiva da sé il proprio tetto, le recinzioni e i livelli sotterranei. Divenne una caverna d'acciaio, un'enorme, protetta caverna di cemento e acciaio. Trantor. Questa capitale raggiunse il massimo sviluppo all'inizio del XIII millennio. Centro del governo imperiale per centinaia di generazioni, situata nella regione centrale della galassia tra i pianeti più popolati e progrediti del sistema, era naturalmente destinata a diventare l'agglomerato urbano più abitato e ricco che la razza umana avesse mai visto. L'intera superficie del pianeta, 75 milioni di miglia quadrate, era diventata un'unica città. La popolazione aveva raggiunto i 40 milioni. Le tue città non esistono, forse non sono mai esistite, per certo non esisteranno più. Perché ti trastulli con favole consolanti? So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude. Perché non mi parli di questo? Perché menti all'imperatore dei Tartari, straniero? Sì, l'impero è malato e quel che è peggio cerca d'assuefarsi alle sue piaghe, Il fine delle mie esplorazioni è questo. Scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono, ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo. Eppure, è la stessa tecnologia che porta con sé i germi devastanti della modernità. La sua presunta onnipotenza, il faraonico gigantismo delle realizzazioni della nuova età del ferro, sono minati alla base da una contraddizione: la paura di non poter controllare la complessità e l'eccesso di forma delle creazioni della tecnologia. Una serie di figure mostruose irrompono allora sullo scenario urbano e lo fanno a pezzi. Scimmie gigantesche, rettili venuti dal passato, vegetali velenosi, cadaveri semoventi. È il divino, rimosso della civiltà desacralizzata, che torna, nell'unico modo possibile, degradato e degradante. L'immaginario catastrofico della fantascienza, del cinema, della letteratura, mostra tutti i limiti del mito della mega macchina. Mentre così parlava, l'intera città si spezzò come un favo. Infilando una bocca di cunicolo alla volta in un molo interno in rovina, era entrata un'aeronave e ora precipitava nel profondo, via via lacerando nell'esplodere, con le sue ali d'acciaio una galleria dopo l'altra. Per un attimo essi videro le nazioni dei morti, ma, prima di entrarvi partecipi, anche brandelli d'immacolato cielo. Gli elementi naturali, tornati selvaggi e terribili, prendono il sopravvento. La città diviene il fantasma di un passato che non è neppure più sicuramente il nostro. La città dava ancora l'impressione che il tocco di una bacchetta magica potesse restituirle la vita, benché molti dei veicoli abbandonati nelle strade cominciassero ad arrugginirsi. Erbe ed erbacce si erano radicate nei canaletti e ostruivano gli scoli. La vita vegetale prorompeva ovunque, gettando radici nelle fessure tra le pietre del lastrico, emergendo dalle fenditure dei muri, insediandosi persino all'interno delle macchine abbandonate. Da tutte le parti pareva aggredire, per riconquistarli, gli aridi spazi che l'uomo aveva creato. All'estremità occidentale il lago si restringe e finisce col disperdersi nelle grandi paludi che coprono il sito dell'antica Londra. Non v'è dubbio che vi scorresse, ai vecchi tempi, il fiume Tamigi. Così le parti basse della possente città di Londra si mutarono in palude, mentre le terre alte si ricoprirono di arbusti. Persino gli edifici più imponenti crollarono al suolo. Le rovine intasarono ancor più il fiume e ne deviarono il corso. Ma non esiste alcuno. La maggior parte delle città era da tempo scomparsa. Le case di mattoni e i capannoni industriali della periferia erano completamente sepolti sotto le dune. Dove queste arrivavano alla superficie, foreste gigantesche si levavano verso il cielo verde opaco. Impenetrabili foreste vergini, alte talvolta sino a 100 metri, erano un incubo di forme organiche in lotta tra loro, rapidamente decadenti verso il loro passato paleozoico. Sospese appena sotto la scura superficie dell'acqua, c'erano le sagome rettangolari degli edifici sommersi, le cui finestre aperte sembravano occhi vuoti in enormi teschi affondati. Erano a pochi metri sotto il pelo dell'acqua, ma si avvicinavano affiorando dalle profondità come un'immensa, intatta Atlantide. 50 metri più in là, il primo tetto emerse dall'acqua, un rettangolo coperto di alghe, sul quale guizzavano alcuni pesci impazziti. Poi, tutto intorno, apparvero immediatamente altri tetti, delineando il percorso di una strada stretta. La piatta distesa di acqua si era trasformata in una giungla di blocchi cubisti, i cui confini si confondevano con la muraglia della vegetazione circostante. In questo scenario vivono e si sviluppano tecnologie fantastiche, usi deviati e laterali degli elementi quotidiani dello spazio, bricolage sognanti. Clarice, città gloriosa, ha una storia travagliata. Più volte decadde e rifiorì, sempre tenendo la prima Clarice come modello ineguagliabile d'ogni splendore. Nei secoli di degradazione la città, svuotata dalle pestilenze, abbassata di statura dai crolli di travature e cornicioni e dagli smottamenti di terriccio, arrugginita e intasata per incuria o vacanza degli addetti alla manutenzione, si ripopolava lentamente al riemergere di scantinati e tane d'orde di sopravvissuti. S'attaccavano a tutto quel che poteva essere tolto di dovera e messo in un altro posto per servire a un altro uso. I tendaggi di broccato finivano a fare da lenzuola. Nelle urne cinerarie di marmo piantavano il basilico. Messa su coi pezzi scompagnati della Clarice inservibile, prendeva forma una Clarice. Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se ci sia dietro un incantesimo o solo un capriccio, io lo ignoro. Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti. Non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell'acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani. Si direbbe che gli idraulici abbiano compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell'arrivo dei muratori, oppure che i loro impianti indistruttibili abbiano resistito a una catastrofe, terremoto o corrosione di termiti, abbandonata prima o dopo ad essere stata abitata. Il crollo della città moderna, di tutto l'immaginario industriale, in effetti è la condizione necessaria per il sorgere di qualcosa di nuovo, ancora frammentario e poco strutturato, ma già aleggiante intorno a noi. Sono le stesse tecnologie soffici, quelle dell'informazione e della comunicazione, che fanno intravedere la possibilità di una nuova utopia, non più totalizzante e ultimativa, ma duttile, ambigua e parziale. L'ipertrofia tecnologica, nell'immaginario, ha rovesciato il modo di produzione in modo di distruzione. Adesso la stessa tecnologia potrebbe contribuire a disegnare un percorso di ricostruzione. Le nuove tecnologie possono certo essere costrette nelle gabbie delle vecchie abitudini, dei vecchi modi di pensare, ma in questo modo ci si precluderebbe forse la possibilità di usare tutte le loro potenzialità liberatorie. La nuova utopia ha bisogno di tutta la nostra curiosità, di tutta la nostra noia per il vecchio. Per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell'approdo. Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che si incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò insieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, distanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. We'll be right back.